Ma perché è uno di quei pochi romanzi che, oltre a essere un libro, sono diventati una specie di manifesto dell'umano. Non so, 4 o 5 romanzi così. Tutti lo conoscono pur non avendolo letto, no? Sì. Però, perché è stato declinato in musical, film, sceneggiati televisivi, eccetera, eccetera. E ha come punto centrale questo eroe inventato da Hugo e Jean Valjean, ed era praticamente un romanzo su una figura che in genere è strana nei romanzi, c'è solo, diciamo, l'idiota di Dostoevskij che ha come punto centrale un buono, cioè un uomo buono, un uomo fondato ovviamente su un aspetto cristiano dell'umanità. È un romanzo per quel che riguarda Jean Valjean è un uomo assolutamente cristiano che, essendo un ex galeotto, ha incontrato un paradosso di carità cristiana, perché è andato ospite a casa di un vescovo a sua insaputa, e di notte ha rubato tutta l'argenteria, viene catturato, viene riportato a casa del vescovo dalla polizia, e il vescovo dice: ah sì, te l'ho regalato io, anzi ha dimenticato qui i 2 candelabri d'argento che volevo dargli. Al che rimane basito Jean Valjean e si trova di fronte appunto al paradosso della carità gratuita cristiana. E da lì cambia completamente la sua esistenza, dedicandola alla gente, dedicandola alla carità, alla bontà. Ecco, questo è questo che ne fa un personaggio anche molto amato, molto amato. Poi ha la scelta della figlia adottiva, una bambina che lui cresce dalla povertà assoluta, cresce, lui diventa ricco, ricchissimo proprio. E il vero rapporto che ha con questa bambina è il lato più oscuro del romanzo, perché Jean Valjean in tutto il romanzo non ha mai una donna, non ha mai un amore. E questa bambina in casa sua cresce dall'infanzia fino all'adolescenza, e l'unico moto di gelosia ha è quando questa ragazza incontra il fidanzato. Lì perde la testa Jean Valjean e, in un certo senso, cerca la morte, cerca una specie di suicidio con le barricate a Parigi, va a combattere chiedendo praticamente di morire. E quindi il romanzo si snoda fino a questa triste fine di Jean Valjean, che ha perso la sua felicità, però insomma, felicità era della bambina, di questa ragazza che si sposa, eccetera, eccetera. È un romanzo di 1400 pagine, enorme, che è un vero romanzo classico, cioè un tranche de vie. Tratta di tutto, tratta di storia, sociologia, filosofia, psicologia, amore, tutto, ed è stato riportato in uno spettacolo di 2 ore e mezza. Tu dirai: ma come è stato possibile? Beh, Toninelli è riuscito come dire, a legare tra loro una dozzina di scene, di quadri, che hanno un'attinenza l'uno con l'altro, e certo, non è tutto il romanzo dei Miserabili, ovviamente, però il rapporto centrale è questo rapporto con la figlia, e questo viene messo sul palcoscenico come, diciamo, storia principale. Ecco, questo è. Quali sono a tuo avviso i punti di forza della scrittura di Hugo che fanno attraversare Hugo, il tempo sì, a ho questo? capito. Hugo, chiesero a Gide, grande scrittore, no? Non so chi lo conosce, chi lo conosce, grandissimo scrittore francese, chiesero a Gide chi era il più grande scrittore francese. E Gide rispose: ahimè, Hugo. Cioè, questo ahimè, eh sì, perché c'è questo aspetto cristiano che dava fastidio, Sì, no? sì. Anche chiaro, cattolico direi, perché, che dava fastidio, come darebbe oggi fastidio. E quindi Gide disse: sì, a parte questo, ecco, il più grande scrittore che noi abbiamo è comunque Victor Hugo. Il quale, però, c'è una notizia interessante: il figlio di Hugo ridusse questo romanzo a testo teatrale con la supervisione del padre, quindi non è una novità. Ok. Già il figlio l'aveva, ed ebbe molto successo a Sì. Parigi. Come hai incrociato questo progetto teatrale, Franco? No, assolutamente chiamato da professionista, non è roba mia, cioè, mi hanno telefonato se lo volevo fare, e io lo regista, però, chiamo però. E cosa ti ha convinto da subito? Personaggi che un attore, sia cinematograficamente o teatralmente, vorrebbe interpretare, no? Come Amleto, butta la lì. come fare, non so, Raskolnikov con Delitto e Castigo. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento con lo spettacolo I Miserabili di Vittorio Hugo nell'adattamento di Luca Doninelli a Roma, al Teatro Quirino, Roma, dal capito. 23 ottobre al 4 novembre. Un saluto e un ringraziamento all'attore Franco Branciaroli. Esatto, va bene. Franco, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci vediamo a teatro. Ciao, grazie, ciao, ciao. Con Rodolfo Di Gianmarco, curatore di Trend, 17ª edizione, Nuove frontiere della scena britannica, con 17 titoli, a Roma, al Teatro Belli, dal 18 ottobre al 22 dicembre. Rodolfo, ben trovato. Ah, grazie a voi, ben incontrati. Sono qua per parlare di una rassegna che non ci dà molto futuro, che non ci dà molte prospettive. Effettivamente sembra proprio che tutto il mondo coincida. Anche la drammaturgia inglese si mette davanti praticamente a una sorta di muro. Direi che è uno specchio di una realtà quasi globale, quindi per non parlare appunto della nostra. E allora sono testi che appunto riguardano tutti i nostri mali, malesseri, delle storture sociali e anche cose che possono accadere, cose peggiori. Un testo anziano, il più anziano che stiamo mettendo in scena, ma inedito in Italia, e che è di Carol Churchill, questa che è la drammaturga vivente, madre dei nuovi drammaturghi inglesi. Questo testo, che si intitola Not, Not, Not, Not Enough Oxygen, nel 71 prevedeva quasi fantascientificamente che nel 2010 non ci fosse più ossigeno per tutti, ma solo a pagamento. Era appunto il futuro nel 2010. Abbiamo superato da 8 anni, sappiamo che l'ossigeno è messo leggermente a rischio e quindi, insomma, era una previsione che stiamo cavalcando. Vabbè, questo per fare un esempio. Poi ci sono esempi di traumi che abbiamo già conosciuto altrove, e a New York. Adesso un testo che si intitola Blue 21 di Stuart Slade ci dà una sorta di campionatura di voci di parenti dei passeggeri di un aereo, tutti morti, un aereo che è caduto per progetto su Londra. Quindi, diciamo, un terrorismo che ha colpito in una maniera del tutto inedita Londra. E noi sentiamo soltanto i sopravvissuti che ci dicono delle cose dell'altro mondo, perché appunto è avvenuta una cosa dell'altro mondo. Vabbè, questo per fare Sì. due esempi. Allora, 17 titoli mi sembra una corposa finestra sulla drammaturgia britannica odierna. Questo festival è diventato un festival di 2 mesi, diciamo, vabbè, è l'unico in Italia che si interessa per 2 mesi di drammaturgia inglese, e da qui poi partono per essere spettacoli che spero circoleranno. Quindi abbiamo ad esempio il 2021, questo fine settimana, Jordan di Reynolds Bufini, dove Federica Rossellini, attrice molto premiata e molto scoperta da un anno dal teatro, e è praticamente la madre che ha ucciso il proprio figlio. Non se la cava molto meglio My Brilliant Divorce di Geraldine Aron con Francesca Bianco, dove la solitudine è estrema di una donna, le donne che appaiono molto vincenti in quest'epoca. In questo caso è una donna lasciata sia dal marito sia dalla figlia, proprio a un azzeramento della possibilità civile di una figura femminile. E si va avanti così con Ivan and the Dogs di Happy Nailor con Lorenzo Lavia, dove c'è un ragazzo selvaggio che è tale perché è stato cresciuto con i cani o con i lupi, se si vuole, e quindi in qualche modo dà un'idea di un arretramento totale dell'umanità. Poi abbiamo anche storicamente qualcuno che vuole mettere piede a trend per attestare la validità e magari anche un risguardo nuovo su autori conosciutissimi, cioè Glauco Mauri e Roberto Sturno, che hanno voluto essere in questo festival con Anatan Dampe The Cat, ed è però un percorso multimediale molto nuovo e diciamo prende qualcosa della scrittura di Beck, ma che soprattutto ne fa un nuovo spettacolo e una nuova rilettura. Dopodiché abbiamo voci sempre in crisi, abbiamo chi sta dentro un circolo vizioso che è dato dalle formule nuove dei social, dove praticamente c'è un pericolo incredibile per i giovani, cioè c'è la morte, e quindi la morte che viene diffusa attraverso le possibilità dei social. Ci sono persone che non hanno e non hanno più un'idea del sesso e ne fanno una sorta di momento pubblico per cercare conforto, ovviamente non trovandolo. C'è chi ha perso in maniera orrenda, macabra, una mano e la cerca, cioè cercare una propria mano che è stata tagliata, ma non darsi pace perché è scomparsa questa mano. In questo caso l'autore è Martin McDonagh, che abbiamo conosciuto anche per il famosissimo film dei tre cartelloni, che è piaciuto a tantissimo pubblico, ha fatto sì che Martin McDonagh non fosse più solo un autore teatrale, ma anche uno sceneggiatore, un regista di cinema. Ecco, questo è un quadro appunto che ci lascia, come dire, ecco così, scoraggiati, sì, ma forse anche realisticamente rispettati. Sì. Rodolfo, la scelta dei titoli è frutto di visioni in festival internazionali? C'è sia una fonte conoscitiva e di diffusione che io ho sempre un po' rintracciato nel Festival Internazionale, nel Fringe di Edimburgo, sì, e naturalmente quindi lì, certo, è un appuntamento mondiale che offre molti spunti. Poi direi che comunque anche alcuni teatri di Londra sono delle fabbriche, ecco, di nuovi spettacoli. Sì. Questo è lì, e quelle sono le fonti di approvvigionamento più frequenti. Come sono distribuiti gli spettacoli in cartellone? Avranno giorni di programmazione? Sì, ne hanno mediamente tre. Mediamente sono tre, abbiamo sempre con noi compagnie che si sono create o che sono già dei sodalizi provatissimi, abbiamo anche Elena Bucci e Marcos Grosso ad esempio, loro possono venire per una sola sera, ma molto volentieri li ospitiamo. Nasce un sodalizio nuovo fra Gianluigi Fogacci, attore ma anche regista, molto bravo, e con Carlotta Proietti, la figlia di Proietti. Ad esempio c'è la compagnia che io seguo ormai da qualche tempo, formata da Stefano Santospago, in questo caso più Edoardo Purgatori, che è la punta di questa compagine, e con la regia di Maurizio Pepe, e loro fanno Killology di Gary Owen, dove appunto dicevo si diffonde il germe della morte nel web. Sì, poi abbiamo è appena nato un possibile spettacolo, ora era una lettura scenica con Massimo De Francovic, grande attore di Ronconi, e Roberta Caronia, attrice nuova ma bravissima, che facevano un padre e una figlia incaroniti tra loro. Allora, ricordiamo la 17ª edizione della rassegna Trend, Nuove frontiere della scena britannica a Roma, al Teatro Belli, dal 18 ottobre al 22 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al curatore Rodolfo Di Gianmarco. Rodolfo, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, buona giornata, grazie a voi. Ciao, arrivederci. Con la regista Francesca Tricarico per parlare del reading Oltre il muro di Done, una storia sospesa, liberamente tratto dal quarto canto dell'Eneide, a Roma al Teatro Quarticciolo il 25 ottobre. Francesca, ben trovata. Ciao, ben ritrovati a voi. Un reading che viene dal progetto che porti avanti con la compagnia Le Donne del Muro Alto, vero? Sì, è uno spettacolo tratto dai testi che hanno scritto le ragazze a Rebibbia, uno spettacolo che abbiamo portato in scena con loro nel carcere di Rebibbia, e adesso riportiamo scena con una loro ex compagna di detenzione che finalmente è una donna libera. E quindi andremo in scena con lei al Quarticciolo il 25. Partiamo dal percorso di scrittura di questo testo. Ce ne parli un po'? Sì, in realtà noi, come già annunciato, dovevamo andare in scena con un altro testo scritto 2 anni fa, Medea. Mai avremmo potuto immaginare che divenisse così tristemente attuale, e dovevamo portarlo in scena proprio con le signore che lo avevano scritto a Rebibbia e che lo avevano interpretato a Rebibbia. Visto ciò che è accaduto, abbiamo deciso di fare un incontro con le attrici detenute, con il carcere, e ci siamo resi conto che, per rispetto proprio del dolore di quello che stava accadendo, di quello che sta accadendo in questo momento a Rebibbia, non fosse il caso di portare in scena proprio con lo spettacolo, e quindi abbiamo deciso di portare in scena lo spettacolo precedente, sempre scritto da loro, con la loro ex compagna. Insomma, è stata una scelta molto sofferta, però ci è sembrata la scelta più giusta. Ecco, questa è un po' l'idea. E abbiamo deciso di utilizzare comunque questo spazio per dare voce proprio a loro, è stata una loro richiesta, comunque dateci voce in qualche modo. E quindi è un racconto dell'esperienza teatrale in carcere più il reading dei loro testi. A proposito dei testi, ci descrivi questa didone? Sì, abbiamo fatto una riscrittura del quarto canto dell'Eneide e abbiamo cercato dei punti di contatto fra Didone e la storia di queste signore. In particolare ci siamo chiesti come dovesse sentirsi Didone durante il suo tragitto per arrivare fino a Cartagine, quindi abbiamo indagato il tema del trasferimento, l'abbiamo riportato al tema del trasferimento carcerario, ci siamo soffermate sulle maternità negate. Didone a un certo punto dice: Denea, se almeno avessi avuto un figlio da te, non mi sentirei così sola. Ed è stata per noi, ad esempio, l'occasione per poter ragionare su tutte quelle donne che, per esempio, entrano in carcere a 30 anni e si trovano ad uscire a 45, quindi abbiamo anche un po' affrontato il tema dell'impossibilità di diventare madri, senza dirci se era giusto o sbagliato, ma semplicemente ci siamo poste delle domande, quindi è stato per noi un pretesto per porci un po' delle domande. Come di consueto facciamo in tutti i lavori che noi portiamo avanti, cerchiamo un po' nei testi dei grandi autori di trovare quello che per noi è importante raccontare. A questo punto facciamo anche un passo indietro parlando dell'esperienza della compagnia. Ci racconti da come è nata e come si sta sviluppando? Sì, la compagnia è nata 5 anni fa, dopo una mia esperienza al carcere maschile, ho deciso di andare al carcere femminile, quindi di indagare il mondo delle donne in carcere, visto che ne avevo sempre sentito parlare poco legato al mondo della cultura e dell'arte, ma prevalentemente legato a o motivi di cronaca oppure all'arte meravigliosa della cucina, del cucito, però poco legato a questo tipo di attività. E quindi 5 anni fa sono andata lì, ho avuto l'opportunità di lavorare in una sezione dove il teatro non c'era stato ancora, che era quello dell'alta sicurezza. E lì è nata 5 anni fa la Compagnia delle Donne del Muro Alto. Poi la famiglia, diciamo così, è cresciuta, è nata anche una seconda compagnia, che è la compagnia Più Voce, di cui ha fatto parte Daniela Savu, che residerà il 25, con le attrici detenute di media sicurezza. Sono due esperienze molto forti e molto importanti, perché insomma il carcere è un po' come le città, no? Ci sono quartieri diversi, nel carcere ci sono sezioni diverse, come un quartiere della città porta con sé delle realtà diverse, con abitanti, con estrazioni sociali diverse, con realtà di storie simili ma diverse, anche il carcere è la stessa cosa. Quindi queste due compagnie hanno anche questa caratteristica. La compagnia Più Voce, quella di media sicurezza, è fatta da signore che vengono da continenti, paesi diversi, situazioni sociali diverse, lingue diverse, e invece l'alta sicurezza sono prevalentemente italiane. Quindi questa è la caratteristica. Ormai sono 5 anni che stiamo lì, il lavoro presegue, a volte in modo più semplice, altre volte in modo un po' più complicato, però noi resistiamo e ci siamo, con la voglia di raccontarvi quello che succede lì. Ci dai riferimenti web per saperne di più? Sì, allora abbiamo una pagina Facebook che si chiama Le Donne del Muro Alto ed un sito che si chiama Le Donne del Muro Alto. E lì ci sono un po' tutte le nostre avventure, in particolare sulla pagina Facebook c'è un diario di bordo settimanale dove raccontiamo la nostra avventura teatrale, gli eventi, ma anche un pochino la voce delle ragazze attraverso di noi, attraverso quello che facciamo, insomma. Benissimo. Siamo lì, vi aspettiamo. Ricordiamo l'appuntamento con il reading Oltre il muro di Done, una storia sospesa, liberamente tratto dal quarto canto dell'Eneide, a Roma al Teatro Quarticciolo, 25 ottobre prossimo. Un saluto e un ringraziamento alla regista Francesca Tricarico. Francesca, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Siamo con il giornalista Gerardo Ferrara per parlare della narrazione sonora Facciamo finta che Chisto è Peppino, che sarà a Roma allo Sparwasser il prossimo 25 ottobre. Gerardo, ben trovato. Grazie a te per lo spazio e questo viaggio, questa indagine di narrazione sonora, perché Peppino impastato oggi nelle case sgomberate, nei condoni elargiti, perché Peppino è nei ponti che crollano, perché Peppino è tra i migranti e le migranti perseguitati ogni giorno, perché Peppino è nei porti chiusi, ma soprattutto nei cervelli e nei cuori chiusi della gente, perché Peppino è nella tortura del carcere e dei manicomi che ancora oggi esistono in Italia. Peppino confuta questa stucchevole diatriba, finta diatriba, no? Se viviamo o meno in uno stato mafioso, e se c'è stata una trattativa Stato mafia, di fatto viviamo in uno Stato mafioso, perché è uno Stato che impone un modello di vita barbara che non ci corrisponde, è di fatto uno Stato mafioso. Peppino è quindi, come dire, un urgente bisogno di attualizzare alcuni temi, alcuni ci stanno a cuore, e noi lo facciamo attraverso un pigio giornalistico che ci appartiene da sempre. Io vengo dalla militanza di Radio Onda d'Urto, attraverso quel linguaggio che appartiene al teatro cantone, alla narrazione sonora, per incontrare un po' un pubblico diverso e parlare oggi di cosa voglio dire mafia e antimafia. Sì, sì. Com'era nato tutto? Ma nasce da una casualità, se vuoi, al di là del fatto che poi quest'anno è il quarantennale del massacro di Peppino, e dal fatto, non di seconda importanza, che noi siamo stati convocati, io come giornalista e Tonino Macis, che è il maestro chitarrista che mi accompagna in questo viaggio, dalla neonata associazione antimafia Peppino Impastato qui a Cagliari in Sardegna, che fa un po' l'evoluzione del lavoro storico che fanno a tempo Pausania, cioè da tanti anni, proprio come

appunto anche il pubblico dei piccoli ci interessa molto. Okay. E saltiamo un weekend per arrivare al 26, il venerdì, che nell'ambito del Roma Art Week abbiamo una cosa molto particolare, installazioni, arriverà addirittura con un camper, Maria Gloria Firabella, per presentare storie di identità negate, a cui saranno anche una installazione che si chiama Identity. Per finire, il sabato 27 abbiamo il collettivo DAB, We Are the Birds of Coming Storm, che è uno spettacolo che nasce da un laboratorio interpretato dai migranti, richiedenti asilo politico e rifugiati, insomma. Okay. E appunto, come vedi dal racconto, sono cose assolutamente diverse, però è un po' la magia della ex lavanderia, insomma, che fa incontrare pubblici totalmente diversi. È una situazione in cui chiediamo comunque un contributo libero, chiedendo appunto magari di come si fa una cosa per finanziare le compagnie, quindi chiediamo un contributo di 5 euro. Okay. Senti, a questo proposito, la scelta degli spettacoli di volta in volta? Nasce dal collettivo, dove ci sono persone che a vario titolo si occupano di teatro e quindi chiaramente delle cose che possano sia che appunto chi ha circuitato intorno alla ex lavanderia con le prove o facendo altri spettacoli, chiaramente ci fa sempre piacere ospitarli, ma l'anno scorso, diciamo, nella fase di maggio abbiamo ospitato anche compagnie che venivano da fuori Roma, quindi è una cosa assolutamente molto aperta, ci fanno delle proposte e l'idea, ecco, è di essere il più aperti possibile, di non avere una linea che sceglie un pubblico preciso, ma insomma, ecco, non dimenticare i bambini, non dimenticare chi vuole divertirsi, non dimenticare chi è interessato all'arte contemporanea, quindi è un po' un cercare di, diciamo, di fare una sintesi di tutte le umanità, dire, che si possono incontrare nella cultura, insomma. A proposito di sintesi, ci sintetizzi un attimo anche la situazione amministrativa rispetto alla vicenda ex lavanderia? La ex lavanderia, che da 14 anni è occupata, è un'occupazione antica, in questo momento abbastanza a rischio, perché comunque si è sempre battuta l'associazione ex lavanderia, come il comitato si può fare per l'utilizzo, come vuole la legge Basaglia, pubblico e culturale e sociale degli spazi che sono di un ex manicomio. Però l'ASL, che l'ha sempre fatta un po' da padrona in quello spazio, aprendo nuovi uffici, sembra che ha un modello adesso ancora più di espansione su diversi padiglioni, chiamando la città della salute e del benessere, ma fondamentalmente facendo ancora una cosa assolutamente sanitaria, insomma. Mm-hmm. Quindi siamo proprio molto in battaglia, in questo momento c'è un accordo che è tra comune, regione e municipio, quindi diciamo siamo messi male, ecco. Però appunto fortunatamente c'è una cittadinanza attiva, abbiamo fatto una manifestazione il 6 in Campidoglio, c'è tutto il reparto della salute mentale che sta molto dalla parte nostra e quindi questo ci dà un po' la forza di andare avanti, ecco. Allora, per tutte le informazioni sia rispetto all'ex lavanderia che alla rassegna, ci lasci dei riferimenti web? Sì, abbiamo il sito web che è exlavanderia.it, abbiamo una pagina Facebook molto seguita e molto attiva, su Facebook c'è anche la pagina di Umane Scintille, diciamo non è difficile avere informazioni, ci sta anche un regolare servizio di segreteria, quindi diciamo ci raggiungete sicuramente chiunque voglia avere informazioni. Bene, allora ricordiamo la rassegna Umane Scintille, tappa d'autunno con 4 spettacoli a Roma all'ex lavanderia dal 19 al 27 ottobre. Un saluto e un ringraziamento a Carla Romana Antolini. Carla, un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi tantissimo e vi aspettiamo. Ciao Federico.

proprio io ricevo tantissimi messaggi di donne che mi dicono grazie, non so, hai raccontato la mia storia, oppure no, mi hai liberato, mi hai fatto sentire. Allora, naturalmente si vede che delle cose che sono successe a me sono successe anche ad altre, però sembrava che fossero proprio pronte a condividere questa roba, no? Quindi insomma io sono molto contenta di questa cosa, anche perché si è creata una specie di rete, quindi succede proprio quello che io auspico, cioè che fra donne si crei una rete più di solidarietà e si spezzi possibilmente quella della rivalità, dell'antagonismo, che invece ci fa tanto male. Dove li stai portando i tuoi monologhi? Ma adesso, appunto, come dicevi, a Roma c'è questa data importante a cui tengo molto, perché appunto è la Casa Internazionale delle Donne, quindi per me insomma è anche una sede simbolica. Poi ce ne sarà un secondo sempre a Roma, al Caffè Letterario di Via Ostiense. Poi dopo abbiamo un programma a Genova, Torino, Milano. Io ho un po' di richieste in giro, quindi è questione di organizzarmi e vedere. Diciamo che sto andando un pochino nelle città del centro-nord Italia, visto che io sono toscana, poi magari mi spingo anche più in là, a me cioè, non mi pare il vero, però è una cosa che si sta, diciamo, costruendo su se stessa. Mm-hmm. Ci lasci tutti i riferimenti web per seguirti? Ma sì, è molto semplice, perché dunque io ho un profilo Facebook sul quale sono piuttosto attiva e dove pubblico questi video monologhi, e quello è Teresa 5, cioè il mio nome. E poi c'ho anche un canale YouTube, e anche quello si trova cliccando il mio nome, Teresa 5. Niente di più facile. Benissimo. Allora, okay. Ricordiamo l'appuntamento alla Casa Internazionale delle Donne il prossimo 26 ottobre con Errori di base di e con Teresa 5. Teresa, è stato un piacere, un abbraccio e a risentirci presto. A presto, grazie mille. Ciao, arrivederci. Con Daniele Parisi, e non solo, perché oggi è nella tripla veste di regista, autore, attore, per due appuntamenti a Roma, al Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 26 ottobre e sabato 27. Ben trovato, caro. Eccoci, buongiorno, eccoci trovati di nuovo, ciao. Ma con chi sei? Allora, io sono qui con Lara Balbo e Salvatore Lanza, che sono gli altri due attori dello spettacolo Come i Popcorn, spettacolo che debutta al Cinema Palazzo in una forma di secondo studio, perché la prima volta l'abbiamo messo in scena con un corto teatrale di 15 minuti, stavolta lo allarghiamo un po' di più, siamo più o meno sui 35-40 minuti, e presentiamo questa versione inedita, un pochino più allungata. Il testo inizialmente era di Salvatore. Insieme poi piano piano lo stiamo allargando e stiamo facendo quella cosa che si chiama scrittura di scena, e stiamo vedendo dove ci porta appunto le prove e l'improvvisazione, insomma, ecco. Quindi molto forte l'elemento improvvisazione? Nella fase di compositiva assolutamente sì, poi arriviamo a un momento di formalizzazione, lo spettacolo poi piano piano prende forma sempre di più, ecco. Ok, quindi si tratterà di una novità per la scena rispetto al formato che aveva prima? Sì, in qualche modo sì. Poi tra l'altro qua ci sono anche gli altri due attori che ti salutano. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vi state divertendo? Molto. Sono costretti a dire questo, diretti da me. Daniele Parisi è fantastico. Oh, è fantastico. Anche bello, ditelo, bello. Anche bello. Bello. Fisicamente. Simpatico, solare e fantastico. Vedi gli attori, la falsità degli attori. Senti, ma quelle scarpette da ginnastica rosa sono di Lara Balbo o di Salvatore Lanza? Diciamo la verità, chi è? Ovviamente sono mie. Ok. In scena però le presto a Lara. E quindi... Esatto. Okay. Però sono mie. Che ci nuoterà dentro, immagino. Il mio è pieno di calli, si può dire in radio. Allora, Lara e Salvatore, come siete finiti con Daniele? Io e Daniele abbiamo fatto l'anno scorso una serata insieme a Iesi. A Iesi, esatto. Nelle Marche, sì. Da lì, più che la serata in sé, il dopo serata è stato molto piacevole. E, capendo il personaggio... la persona e l'artista che c'è in Daniele, ho pensato, dopo aver scritto il testo, che poteva essere compatibile con le mie idee e con l'umanità che c'è tra, che c'era già prima tra me e Lara, e infatti questo si è rivelato tale. E siamo molto felici di questa, cioè io sono molto felice di questa collaborazione. Anche io sono molto felice di questa collaborazione, perché sembra che magari io... E io invece conoscevo già Salvatore, perché abbiamo fatto un lavoro insieme 2 anni fa con Stefano Fresi, e niente, lui mi ha coinvolto in questa fantastica avventura. Insieme abbiamo conosciuto Daniele, per me è stata un'esperienza nuova, bellissima, e sarà un'esperienza bellissima. Lara, e te inizialmente indossavi quelle scarpe nere e bianche invece? Esatto. Va bene. Quelle. Ci dai una traccia della storia per far capire qualcosa? Allora, ci sono, possiamo dire che è una sorta di storia d'amore, ecco. È un amore che parte da quando sono piccini, e poi a un certo punto, perché non posso rilassare, e continua nonostante tutto. Ecco, quindi è un punto di vista dell'amore diverso, ecco, okay. Diciamo questo, quindi un amore che vince e dura nel tempo in qualche modo sì, ed è interessante il punto di vista che noi prendiamo e che prende soprattutto Salvatore come autore, no? Come idea, un'idea insomma molto coraggiosa. Ok. Daniele, però è anche vero che la vita è una beffa. Assolutamente, ma infatti noi lo dicevamo, il titolo di questa serata a due, diciamo, questa doppia serata potrebbe essere La vita è una beffa, esattamente come i popcorn, praticamente, che sono i due eventi messi insieme. La vita è una beffa è una sorta di best of in cui prendo le cose che a me va di fare in questo momento, no, perché uno dice le cose migliori del mio repertorio, no, quello che mi va di fare adesso a me, e le metto insieme e come sempre le getto in pasto al pubblico e insomma me lancio sul pubblico con grande spregiudicatezza. Ok, il nuovo Cinema Palazzo è la sede di queste due serate? Assolutamente sì, noi faremo, come ripeto, 26 c'è il mio spettacolo, il 27 come i popcorn. Il Cinema Palazzo è ancora una straordinaria cornice di questo, anche delle cose che faccio, ma non solo, anche di Sgombro e tutto il resto, ed è un luogo di resistenza artistica e creativa. Come i popcorn è il risultato di una residenza di 2 settimane, quindi insomma è un luogo dove noi siamo liberi, ecco. Ok. In chiusura, ci date i riferimenti web per tutte le informazioni? Allora, su WhatsApp, per ricevere un messaggio mio, sono io, chiaramente, su WhatsApp, con un numero, è mio, che dico finite. No, perché sto facendo liste proprie, altre cose. Poi invece su Facebook potete vedere gli eventi, che sono appunto quelli di La Vita è una Beffa e Come i Popcorn. E in più c'è anche il mio sito, che è www.danieleparisi.com, dove ci sono entrambi gli eventi che sono promossi qui, insomma, al Cinema Palazzo. Benissimo, allora un abbraccio a tutti e tre, in bocca al lupo e ci vediamo lì. Grazie mille. Ciao. Con Davide Enia, autore e attore dello spettacolo L'Abisso al Teatro Indie a Roma dal 9 al 28 ottobre. Davide, ben trovato. Ciao a tutti, salve. Lo descrivi? L'Abisso è il secondo movimento dopo la scrittura del romanzo Appunti per un naufragio, che prova a raccontare, prova a riflettere sulle parole per raccontare l'esperienza che ho vissuto andando sistematicamente per anni a Lampedusa. È un tentativo di provare a nominare il presente nel momento della crisi, prendendo atto del fallimento delle parole, prendendo atto dell'assoluta novità di quello che sta accadendo e della necessità di un cambio di paradigma, proprio perché è nuovo ciò che abbiamo davanti. Quante volte sei stato a Lampedusa e che esperienza è stata? Lampedusa la conosco da quando ho 3 anni, perché ci andava mia madre nel 44. Non so neanche dire quante volte, tantissime. Sistematicamente per la scrittura, diciamo che negli ultimi

da un ritmo proprio di percussioni, perché sai, tutte queste marce, tutte queste cose, insomma, quindi c'è anche una sonorità intorno che l'accompagna, e in più ogni tanto dei frammenti proprio melodici che sono di Nicola Piovani, che sono il suo desiderio di vita, che è raccontato con un violino, insomma, ecco, con oppure melodie di ballate di quando erano prima della guerra, quando si andava a ballare sull'Aia, ecco, ogni tanto ha dei frammenti di ricordi di com'era la vita prima della guerra, che insomma danno un grande, portano molta emozione, ecco, durante lo spettacolo, è un grandissimo aiuto. È questo. Ricordiamo allora lo spettacolo Un attimo prima a Roma al Teatro Vascello dal 5 ottobre al 18 novembre. Un saluto e un ringraziamento alla regista Norma Martelli. Norma, grazie, un abbraccio, grazie. In bocca al lupo, a risentirci grazie, presto. Grazie infinite, grazie. Il nostro Simone Nebbia di Teatro e Critica per la settimana teatrale dal martedì 23 ottobre al lunedì 29. Ben trovato, caro. E là, buongiorno a tutti. Dici. Oh, allora, dunque. Vediamo un po'. Questa settimana a teatro, ma ci volete proprio andare tutti quanti? Perché io, se volete, mi organizzo, vi ci mando, però insomma non è detto, non per forza, quindi mettetevi d'accordo. E poi sono andato a teatro, qualche dritta ce l'ho. Allora, dunque, direi che alcune cose sono già ben presenti, ben visibili, e se ne parlerà. Io ti direi, prima di tutto, Teatro India, Alessio Bergamo, che non è parente, suppongo, ma non lo so, porta a scena un classico pirandelliano, Il gioco delle parti, di Luigi Pirandello, appunto, dal 23 al 28 di ottobre, quindi durante questa settimana. Il gioco delle parti è una novella del 1913, uno spettacolo tratto dalla novella Quando si è capito il gioco, del grande scrittore siciliano. È una pièce che ha avuto fortuna molto più tardi, in realtà negli anni 60, e che però dopo, insomma, è stata molto molto apprezzata. Quella di un triangolo amoroso fra Leone Gala, sua moglie Siria, e l'amante di lei, che è amico anche di Leone, Guido. E questo triangolo avrà visto, appunto, dall'occhio di Pirandello, molto intenzionato a rivelare non tanto i caratteri dei personaggi, ma insomma i loro ruoli all'interno della commedia umana, se la vogliamo chiamare così. Dal 23 al 28 ottobre tutto questo ce lo andremo a vedere al Teatro India, regia di Alessio Bergamo, Il gioco delle parti. Questa settimana andiamo anche a cominciare la stagione del Teatro Ambra Iovinelli. 25 e 28 ottobre si apre con uno spettacolo che insomma già è stato in scena al teatro lì vicino alla stazione Termini, dedicato a Domenico Modugno e Giuseppe Fiorello, che porta Penso che un sogno così, la regia è quella di Giampiero Solari, spettacolo appunto dedicato al grande cantautore pugliese Domenico Modugno. Poi allora, Federico, sì. Ti porto al Teatro Studio 1, dal 25 al 28 ottobre, Il mega mago del Magikistan, questa volta diciamo questo paese strano dell'ex territorio caucasico, a giudicare dalla desinenza, ci porta quindi il mega mago ci porta in Magikistan. Questo mega mago è in realtà un spettacolo diretto da Riccardo Maggi e Luca Laviano, che è anche protagonista insieme ad altri due attori, Dimitri Durbano e Elisabetta Girodo Angelin. Questo è la pronuncia del suo cognome, ed è ovviamente un clima ricco di colori, di magia, di entusiasmo, di risate, insomma si riderà attraverso insomma il gioco della magia. 25-28 ottobre, Teatro Studio 1, in quel di Torpignattara. Procediamo, Federico, perché allora al Teatro Lo Spazio invece, è stato Lo Spazio? Sì, dal 23 al 28 ottobre uno spettacolo musicale interpretato da Gianni De Feo, lo spettacolo si chiama Chapeau, con le musiche originali di Francesco Verdinelli, che credo sia anche direttore del teatro sì. Lo Spazio, e racconta una vicenda surreale in una immaginifica società alveare dove il Civis 2/4 ha il controllo e la repressione sulla vita, sulla coscienza, sull'emozione degli individui, quindi una sorta di mondo iperreale con rimandi kafkiani e orwelliani per questo chapeau spettacolo musicale di Gianni De Feo dal 23 al 28 di ottobre. Invece nello spazio 18B, sempre 25-28 ottobre, l'occasione per vedere un lavoro diretto da Jacopo Bezzi e Massimo Roberto Beato che si chiama La Masa Madre, spettacolo etico, biologico, lievitato naturalmente, con un attore che è Dario, perdonami, con l'intuizione dell'attore Dario Tamiazzo, che sarà in realtà, che non sarà in scena in realtà, perché in scena c'è Ettore Nigro. Si tratta di uno spettacolo che ha girato già il mondo, della storia di Santo, un ragazzo che vuole diventare fornaio perché ha un sogno, fare il pane per tutti, e lotta così per mantenere viva la pasta madre che è ereditata dal nonno fornaio. Parte per Buenos Aires, insomma, all'interno della vita argentina capiremo anche cosa ha a che fare il pane con quella terra e con in realtà il viaggio. E dal 25 al 28 ottobre, spazio 18B, La Masa Madre. Poi parte anche il Teatro Argo Studio, 23-31 ottobre, il lavoro di Sergio Fierattini, Un Mondo Perfetto, con in scena Emanuela Mandracchi e Paolo Giovannucci, insomma due attori di livello. 23-31 ottobre appunto affronta il tema molto attuale in realtà dell'adozione delle false vocazioni. Una coppia sogna di adottare un figlio e però insomma si scopre che in realtà l'arrivo del figlio è l'inizio di un percorso molto difficile e di grandi scogli che dovrà affrontare la coppia. Quindi dal 23 al 31 ottobre Un Mondo Perfetto al Teatro Argo Studio, scritto e diretto da Sergio Pierattini. Ancora, Federico, forse è l'occasione per portarti al Teatro Guarticciolo, perché oltre al lavoro su Didone della compagnia del carcere di Rebibbia, in zona del Muro Alto, c'è un lavoro firmato da Fabrizio Arcuri con in scena Angela Malfitano, un monologo che si chiama Max Gericke, che è stato scritto da Manfred Karge, siamo nella Germania del secolo scorso. Ella Gericke, una storia vera, 26 frammenti di una vita. Quanti frammenti contiene una vita? 26 e 27 ottobre lo andremo a scoprire al Teatro Biblioteca Guarticciolo. Questo per quanto riguarda appunto Fabrizio Arcuri. Poi il 25 ottobre al Teatro Eliseo c'è cioè l'inizio della stagione, al Via Reale, Elia Shilton e Silvia Maino, questo l'accento non lo sappiamo, con la regia di Roberto Valerio, porteranno in scena Il Gatto di Georges Simenon, quindi il silenzio ostinato di questa pièce nasce dal romanzo Irriverente, lo direbbe Irriverente la scheda, comunque il romanzo del grande giallista francese Georges Simenon, insomma cerca di mettere in scena Emile e Marguerite, che sono prigionieri in un matrimonio che ha ceduto il passo ad un conflitto permanente. Cosa accadrà tra i due nella loro vita ormai adulta, ormai quasi senile, lo andremo a vedere dal 25 ottobre all'11 novembre al Teatro Eliseo. Questa è una settimana piuttosto intensa, perché è la settimana del debutto delle compagnie indipendenti inserita all'interno del programma di Anni Luce. Si tratta delle quattro compagnie scelte insieme a Maura Teofili, appunto delle Carrozzerie Not, che questa settimana andranno negli spazi del Mattatoio. Si tratta nella fattispecie di Fabiana Iacozzilli, che porterà dal 23 al 25 ottobre La Classe, un docu puppets per marionette e uomini. Io ne ho visto una parte ed è un lavoro appunto di teatro di figura molto molto intrigante, appunto con Fabiana Iacozzilli, che ha sempre firmato come compagnia La Fabbrica. Poi andremo a vedere 24-25 ottobre invece, sempre al Mattatoio, lo spettacolo Vieni su Marte della compagnia Vico Quarto Mazzini, che dopo aver avviato il progetto Mars One, nel tentativo di selezionare un nucleo che avrebbe abitato la prima colonia umana su Marte, non l'hanno avviato, ma dopo aver studiato appunto questo progetto, e dopo la partecipazione di 100.000 persone che hanno avviato la domanda per far parte di questa comunità, la compagnia si è chiesta, insomma, qualcosa su questa umanità disposta a lasciare il proprio pianeta per andare a vivere in un pianeta ignoto. Quindi 24-25 ottobre vieni su Marte. E dunque, invece, la terza compagnia coinvolta è in realtà una artista che si chiama Chiara Bersani, Gentle Unicorn, 26-27 ottobre, sempre negli spazi del mattatoio, per questo lavoro che Chiara Bersani dichiara appunto la figura dell'unicorno. Mi autoproclamo carne, muscoli e ossa dell'unicorno, dice Chiara Bersani, il dialogo tra la sua forma che agisce e la veste dell'immagine, insomma, che viene proiettata fuori da se stessi, che veste in realtà la forma. Quindi questo lavoro concettuale molto intrigante, quello di Chiara Bersani, lo andremo a vedere il 26 e 27 di ottobre negli spazi del mattatoio. L'ultimo lavoro dedicato appunto al anni luce lo vedremo con la trilogia, in realtà sono tre lavori, il 28 ottobre dalle 16 in poi, il libro Ferracchiati, The Baby Walk, la trilogia sull'identità. Sono tre lavori dedicati all'identità, Peter Pan guarda sotto le corna, Stabat Mater e un eschimese in Amazzonia. Questi i tre lavori dedicati appunto alla metafora dell'identità di genere, che diventa poi spazio per indagare in realtà l'universo, l'universo delle relazioni umane. Altre due cose, Federico, sono un po' i lavori della settimana. Il primo è il ritorno a Roma del lavoro ormai di 36 anni fa, Tango Glaciale di Mario Martone, Raffaele Di Fiorio, Anna Redi, che torna con Tango Glaciale Reloaded al Teatro Vascello, sempre per Roma Europa Festival, 25-28 ottobre. Questo è un lavoro storico della storia del teatro, firmato appunto dalla compagnia di allora che si chiamava Falso Movimento, e appunto l'inizio del lavoro fatto di corpi, racconti, visioni, era appunto in quel periodo tra teatro e danza, musica rock, estetiche pop e riferimenti alti, conti concettuali. Questo è il lavoro di Mario Martone, che appunto torna per portare questo lavoro negli spazi del Teatro Vascello. Ultimissima cosa di cui ti parlo, Federico, è l'arrivo dal 23 ottobre fino al 4 novembre di Giancarlo Sepe con Barry Lyndon, il creatore di Sogni, appunto un'opera produzione del Teatro di Roma, che ovviamente si ispira a potente ispirazione, quella del capolavoro di Stanley Kubrick, con la compagnia della comunità, del Teatro La Comunità. Giancarlo Sepe si accosta a questa favola nera per raccontare la vita avventurosa di questo signor Redmond Barry di Barry di Barry, discendente dai re d'Irlanda, vissuto tra amori e guerre. Quindi questa vita avventurosa la andremo a vedere dal 23 ottobre al 4 di novembre al Teatro Argentina. Parte la stagione dello Spazio Diamante, parte con uno spettacolo che io ho visto e quindi mi fa piacere poterlo segnalare, firmato dalla penna di Lucia Calamaro, 26-28 ottobre, Urania d'Agosto, la regia di Davide Iorici, un lavoro dedicato alla vecchiaia, anche qui è un po' alla follia, una donna matura, scocciata, sociale, racconta un po' tutta la sua vita, che parte dalla lettura dei romanzi Urania, dei romanzi fantastici Urania. Molto interessante, 26-28 ottobre allo Spazio Diamante. T'abbraccio e ci si sente martedì prossimo. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.